Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Ci sono dei dibattiti sulla vita che durano per anni, per decenni e che non vengono mai risolti. Uno di questi è i soldi fanno la felicità, e lì si combatte anche a colpi di luoghi comuni. C'è quello che dice sì, però intanto dammi i soldi, è più facile piangere su una Rolls Royce che su una 500, eccetera eccetera. E io invece sono dell'altra opinione. Il grafico, diciamo, della felicità della mia vita, che è, come tutti, è salito ed è sceso più volte, è assolutamente indipendente dal grafico del mio conto in banca. Cioè non c'è un nesso neanche minimo tra il mio conto in banca e la mia felicità. Sulla vita degli artisti poi c'è da fare altri distinguo ancora, perché l'artista molto spesso, insomma, è un personaggio fragile, un personaggio tormentato, quindi spesso ha avuto vite ancora più difficili di quelle degli altri. I soldi e la fama non hanno potere nei confronti del malessere interiore. C'è un senso di inadeguatezza che colpisce le anime sensibili. E poi, insomma, quando ti trovi davanti al mostro della depressione, non cambia nulla il fatto di essere una star. E il mostro della depressione sempre più spesso colpisce a casaccio, con una particolare mira nei confronti degli uomini dello spettacolo. E oggi parleremo di uno dei più grandi artisti degli anni 90, uno dei grandi pionieri del grunge di Seattle, un uomo che ha toccato il fondo quando ancora era un ragazzino, è riuscito a voltare le spalle ai suoi problemi, almeno temporaneamente, ha seguito la sua vocazione, ha capitalizzato le sue ansie ed è diventato quello che è diventato, il frontman dei Soundgarden e degli Audioslave. Insomma, stiamo parlando di Chris Cornell, un uomo che aveva una sola possibilità nella vita, quella di salvarsi con la musica, non certo per i soldi, non per la fama, solo per cantare, per avere qualche momento di pausa da se stesso. Questo è tratto dal documentario My Wave di MTV, che parla proprio della vita di Cornell. Chris ha speso un periodo di almeno 2 anni della sua vita, nell'età tra i 9 e gli 11 circa, ascoltando praticamente soltanto i Beatles nella sua cameretta. Aveva scoperto una grande collezione di dischi dei Beatles abbandonata nel seminterrato della casa dello zio. È stato amore a prima vista. Non c'era niente da fare. Inizia dalla cameretta con i Beatles che suonano come milioni di ragazzi in quegli anni, però il suo rapporto con la musica non è solo un fatto di passione, è una medicina. Luglio 1964, Chris Cornell si affaccia a questo mondo, a Seattle, patria già di Jimi Hendrix, città che avrà una grande rilevanza nella storia della musica. I genitori si chiamano Ed Boyle, Karen Cornell, Lui nasce come Christopher John Boyle. Lui è il terzo di sei fratelli. Prima arrivano tre maschi e poi tre femmine. È famiglia che è anche problematica, intanto perché sono poveri, la madre è costretta a trovare lavori saltuari e a passare la maggior parte del tempo lontana dai figli, e soprattutto in casa di Chris c'è molta violenza. Il padre è un alcolista, è uno che alza le mani sulla moglie soprattutto quando è nella serata storta. Insomma, sono anni difficili, direi terribili. Lui li vive quasi da eremita, si chiude in se stesso, evita il più possibile i contatti con l'esterno. L'unica cosa che non lo lascia mai solo, che è consolatoria, è la musica. Le persone che lo frequentano in questo periodo lo descrivono come un ragazzo cupo, imbronciato, introverso, uno al quale bisogna tirar fuori con le pinze le parole. Peraltro stiamo vivendo in una situazione anche non molto stimolante. Siamo a Seattle agli inizi degli anni Ottanta, c'è molta povertà, poche persone con le quali condividere delle passioni. Per la maggior parte degli abitanti di Seattle la musica è l'ultimo dei pensieri. Queste sono le parole di Chris in un'intervista del 2006. Se eri un ragazzo nato e cresciuto a Seattle, era impossibile sperare di essere un cantante famoso. Non avevo mai intravisto questa possibilità finché non sono entrato nella mia prima band. È stato lì che ho realizzato, proprio nella prima settimana di prove, che avrei fatto questo nella vita, perché mi faceva stare bene, mi portava con la testa da un'altra parte. E prima di entrare in questa prima band però c'è un altro avvenimento importante, c'è un altro fiume da guadare, perché la madre Karen non sopporta più le botte del padre, decide di lasciarlo, prende i sei figli, li carica in macchina e scappa. Da quel giorno tutti i ragazzi adotteranno il cognome della madre. Chris non vedrà il padre mai più. Tutti si chiameranno Cornell. Allontanarsi dal padre così violento è stata ovviamente un'ottima idea, però Chris si sente sempre più solo, gli manca una figura di riferimento. La madre cerca di stargli vicino, di aiutarlo, ma è senza grandi risultati. Lui è un ragazzone grande e grosso, ma è testardo, è introverso. Un giorno la madre torna a casa con una grossa novità. Suona il campanello, in casa c'è solo Chris, come sempre chiuso in camera con la musica a tutto volume. La madre lo tira giù dal letto con una scusa, gli dice: aiutami a scaricare una cosa dalla macchina. Lui va in salotto e trova una bella sorpresa, perché davanti ai suoi occhi c'è il suo primo strumento musicale, una batteria. Lost the grace of the hands that harmed you in the days of a thousand young. Lost my love and it is up to the gone. In your morning I will sleep. Death for Jesus and plastic armies wouldn't bring me back again. Sweet as ether, eyes, I'm blind to them. E finalmente Chris ha uno scopo, un impegno, qualcosa da fare, suona la batteria tutto il giorno. Il cambiamento è notevole. Prima si ascoltava la musica solo per sé, adesso si ha la possibilità di comunicarla agli altri. E allora nel giro di un anno l'entusiasmo cresce, si iscrive a chitarra e a batteria, cioè comincia a prendere lezioni, e per pagare queste lezioni si dà da fare con lavoretti saltuari. In qualche modo si mette in moto, trova lavoro, prima fa l'autista di scuola bus, poi lo lavapiatti, il cameriere, l'addetto alla cassa al bancone del pesce del mercato, mercato. Per pagarsi queste lezioni, Chris è disposto a fare qualsiasi cosa e in qualche modo esce dal suo torpore, entra in una dimensione diversa, può comunicare, può esprimersi, può avere delle persone con le quali interagire e insomma la musica può veramente fare molto, ti può aiutare, ma a volte neanche la musica sarà in grado di salvarti. Ecco le sue parole da un'intervista di qualche anno dopo. Quello che ho imparato dalla mia esperienza è che la musica non sempre ti salva. Non esiste alcuna sorta di persona, uomo o donna che sia, in nessun luogo del mondo e in nessuna circostanza che sia completamente immune dall'infelicità. Abuso di droghe, problemi durante l'infanzia, carattere particolare. Le cause sono delle più svariate, ma tutti alla fine affetti da questa cosa. E c'è un'altra componente che entra nella nostra storia, la droga. Seattle è una città molto povera, piena di disoccupati, ma la droga gira e gira in grande quantità. È uno dei centri principali degli Stati Uniti per l'uso di eroina. Lì la si compra a prezzo basso. Insomma, in questo scenario di degrado sta arrivando un nuovo genere musicale. Così come il punk fu la risposta al progressive, arriva il grunge, che in qualche modo risponde intanto alla situazione di disperazione di tanti giovani che non vedono un futuro, no future, è la seconda volta che questo slogan emerge, ma soprattutto una risposta al metal molto patinato degli inizi degli anni 90, quello un po' cafone, Motley Crue, Bon Jovi, Skid Row, cioè tutti quei gruppi che facevano ostentazione anche di bellezza sensuale. Bene, il grunge è esattamente l'opposto: capelli lunghi, jeans strappati, magliette sdrucite. È una musica che in qualche modo alimenta un movimento e il movimento alimenta la musica. Il terzo incomodo, però, l'abbiamo detto, è l'eroina. A 13 anni prendevo droghe ogni giorno. A 14 avevo già smesso per via delle troppe brutte esperienze che avevo fatto. Fino a 16 non ho avuto amici. E poi ho ricominciato, quando mi sono avvicinato al mondo della musica e ho cominciato ad interessarmi seriamente al rock. La sua prima band, lui suona la voce e la batteria, c'è un ragazzo che si chiama Hiro Yamamoto al basso e poi arrivano altri due ragazzi, Kim Tail e Scott Sunquist, che suonerà la batteria lui. Insomma, sono nati gli Shemps. Chris si concentra esclusivamente sulla voce, diventa il frontman di una band, anche se il suo essere bello e maledetto lo porterà al trionfo e all'abisso. E poi un giorno questi ragazzi vanno a fare una gita al lago Washington, non molto lontano da Seattle. Si trovano davanti il Soundgarden, è un'opera d'arte contemporanea di Douglas Hollis, struttura che produce suoni grazie al vento che attraversa dei tubi posizionati in maniera strategica. È un po' come loro, che producono suoni strani proprio grazie al vento che entra dentro di loro. E lui guarda questa scultura e pensa che Soundgarden suonerebbe perfettamente come nome, e così la band nasce ufficialmente verso la fine del 1984. ci vuole un manager e il loro manager sarà una ragazza. Si chiama Susan Silver, è già stata manager degli Alice in Chains, degli Screaming Trees, lo diventa anche dei Soundgarden, lo ha notato in un concerto in un pub di Seattle. Chris, peraltro, è uno che si fa notare, è alto più di 1,80 m, ha i capelli lunghi e gli occhi chiari, insomma, ha grande fascino, piace alle donne. Il suo essere chiuso può farlo diventare anche un leader carismatico. Susan si innamora di lui, insomma, questa è la verità. Si innamora di un ragazzo che però è molto problematico. Quando tutto sembrerebbe partire, andare a muoversi nella direzione migliore, arriva la vecchia compagna di una vita, la depressione. La mia depressione inizia probabilmente tra i 10 e i 14 anni. Per certi versi è stata una buona cosa, nel senso che mi ha fatto scoprire quali sono le cose belle che contano davvero nella mia vita e quelle sulle quali fare affidamento nei momenti bui. Mi ha fatto avventurare attraverso la sofferenza, ma devi essere forte e coraggioso per cambiare la tua situazione e passi attraverso momenti davvero bui in cui ti senti solo, a terra. E questo rende tutto molto complicato. Insomma, alti e bassi, un giostra, saliscendi emozionali dai quali è molto difficile scendere, ma di lì a poco la furia del grunge verrà notata e il mondo della musica comincia a porre l'occhio su Seattle. Chris dà il colpo d'ala che gli fa riprendere almeno per un'altra volta la sua vita in mano. Comincia a sfogare la sua rabbia nei testi e nelle canzoni che scrive per la band. E poi i Soundgarden incidono due canzoni per una compilation in cassetta, si chiamava Deep Six, 250 copie vendute, compilation che però diventa leggendaria. Dentro ci sono varie band, i Melvins, i Green River, ma soprattutto i Soundgarden. Uno dei 250 che mette le mani su questa compilation si chiama Jonathan Ponerman, è un DJ di una radio di Seattle specializzata in rock alternativo. Lui è impressionato da questi Soundgarden. Nell'86 propone a Cornell di registrare un album per la sua etichetta nascente, si chiama la Sub Pop. Da un giorno all'altro i Soundgarden passano dai concertini nei pub a uno studio di registrazione. Sentiamo come commenta quel momento Kim Thiele, il chitarrista del gruppo. È venuto e ci ha chiesto se volevamo registrare la musica che ci piace suonare. Noi abbiamo risposto ok e così abbiamo iniziato a suonare. Anzi, prima abbiamo cominciato a scrivere, soltanto a scrivere canzoni. Avremmo scritto una quindicina di pezzi in un paio di settimane, più o meno. Siamo diventati una vera band e, cosa più bella, suonavamo la musica che ci piaceva suonare, senza imposizioni dall'alto. Era davvero bello e divertente. A band playing music that we liked. Dopo un ultimo cambio di formazione se ne va il primo batterista Scott Sanquist e viene sostituito con Matt Cameron e i ragazzi Soundgarden sono pronti. La voce di Cornell comincia a uscire dai confini dei pub, viene paragonato a Robert Plant addirittura. Si fanno avanti le major e i Soundgarden rimangono fedeli alla piccola etichetta che li ha lanciati, anche perché vogliono essere più liberi nelle scelte. Con un furgone danno il via al loro primo tour in tutto il Nord America. Questo tour porterà loro fama e successo, qualcosa che in realtà a Cornell probabilmente non interessa neanche. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la vita tormentata di Chris Cornell, un ragazzo di Seattle che sta diventando a questo punto della nostra storia una grande star, perché in questo momento è su un furgone a noleggio che sta girando per tutto il Nord America e comincia a fare dei concerti con una band che tutti vogliono ascoltare. Il grunge è la nuova tendenza del momento, i Nirvana hanno aperto probabilmente una strada, così come i Sex Pistols lo fecero col punk, e i Soundgarden stanno suonando, suonano bene, iniziano a farsi un nome ancora prima dell'uscita dell'album di esordio. Per pubblicare ultra mega ok, registrano le tracce in studi sparsi tra Seattle e Newberg. Newberg è un paese di 20.000 abitanti nell'Oregon, vicino a Portland. Chris è innamorato di questo posto, è un posto piccolo, tranquillo, insomma, per i Soundgarden. Newberg diventa una seconda casa, anche perché per registrare l'album ci vorrà un bel po' di tempo e tutti sono occupati con il tour, ma anche, insomma, con le droghe, sono inconsapevoli del successo che sta montando attorno a loro. Questo è Chris Cornell nel documentario My Wave. The lyrical themes tended to be dark. C'erano donne, macchine, droghe e tutto ciò che è considerato inerente ai temi del rock and roll. Quindi era abbastanza difficile registrare, c'erano molte distrazioni. Noi non avevamo veramente idea del fatto che ciò che stavamo facendo sarebbe diventato un'icona di un genere musicale o che sarebbe diventato qualcosa di grande successo commerciale. E dopo il disco non c'era nessuno che veniva a Seattle senza guardarsi intorno e cercare una band che facesse il grunge. E il tour in realtà finirà dopo 2 anni, nell'89, un tour fatto di sold out, di momenti indimenticabili, di molta fatica. Chris avrebbe bisogno di riposo, ma non gli viene concesso, o forse è lui che non vuole concederselo, per due motivi. Il primo è che non vuole fermarsi a pensare, perché conosce il suo nemico numero uno, è la depressione, e sa che è sempre lì a aspettarlo dietro l'angolo. E poi perché i Soundgarden non possono fermarsi, sono nel bel mezzo di una rivoluzione musicale. Queste sono le parole di Vince Gray, un critico musicale di Rolling Stone. I Soundgarden erano un fenomeno nuovo, fresco, potente. Questo è il motivo del loro successo. Rappresentavano per tutti una vera novità. La rivista Rolling Stone parla di loro e li mette giustamente tra i gruppi più promettenti di questa nuova ondata musicale, forse, almeno a mio giudizio, l'ultima grande ondata di movimenti spontanei, almeno inizialmente non gestiti dall'industria discografica. È l'ultimo grande colpo che la musica ha messo a segno: Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters e naturalmente Soundgarden. In questo bagno di fama arriva una etichetta, si chiama la AM per noi italiani. Aveva già provato all'inizio a accaparrarsi i Soundgarden e adesso ci riprova. Però adesso, al contrario di prima, Chris e gli altri possono dettare legge, dato il successo del primo album. L'etichetta accetta le condizioni e l'affare è fatto. I Soundgarden sono al top. C'è un'altra pratica spiacevole: se ne va il bassista Hiro Yamamoto, viene rimpiazzato prima con un ex chitarrista dei Nirvana, si chiamava Jason Everman, e poi con Ben Shepherd. Ben Shepherd era un ex roadie dei Nirvana. A Chris piace molto perché applica alla sua vita un principio che ho sempre cercato di applicare anch'io: non solo musicisti buoni nella band, soprattutto amici, insomma la band è la sua famiglia. Questo è proprio lui, Cornell, dopo aver assunto Ben Shepherd. Siamo in una situazione in cui chiunque faccia parte della band è un amico. Prima di essere un membro della band, siamo uniti e in sintonia. Soffriamo e facciamo tutto insieme. E non è facile trovare dei compagni di band che ti capiscano e con i quali sentirti davvero in sintonia. E va bene anche con l'amore in quel momento, oltre che con la musica. Chris sta da 6 anni con Susan, ricordate, la loro manager. Un giorno Chris decide di fare il grande passo. Si sposerà. consacrazione definitiva arriva nel 1994. L'album Super Unknown debutta al numero uno della classifica di Billboard. Chris sta cambiando, si taglia i capelli, è un po' meno punk nel modo di vestire, ma soprattutto cambia quello che ha dentro. Nei primi dischi lui scrive dei testi feroci, aggressivi. In questo album lui dà spazio a temi forse più intimisti, più problematici, la depressione, il suicidio, e sono temi che in qualche modo diventeranno il simbolo del grunge, gli eroi di questo genere, che ahimè molti di questi insomma sono anche scomparsi prematuramente, sono la voce della disperazione, dell'abisso, sono i veri nichilisti di fine millennio. Chris adesso è uno dei capiscuola. Naturalmente le pressioni sono tante, la depressione è sempre dietro l'angolo, alcuni meccanismi, alcune dinamiche all'interno della band cominciano a scricchiolare. Nel 97 c'è la goccia che fa traboccare il vaso, stanno facendo un tour mondiale, Shepherd, il bassista, si esaspera perché l'impianto non funziona, lancia lo strumento, esce di scena, gli altri lo seguono, solo Chris, davvero leader, torna dopo una ventina di minuti e finisce il concerto con chitarra e voce. E questo è Tail che parla dello scioglimento in un'intervista dei primi anni 2000. Era evidente dal comportamento di tutti noi durante quest'ultimo mezzo anno che c'erano delle insoddisfazioni. Da parte di tutti, vicendevolmente. Eravamo sulla cresta dell'onda, nessuno ci poteva fermare, ma non sapevamo che in realtà non era così. Purtroppo i Soundgarden sono stati divorati dal successo, forse è troppo in fretta. Chris beve sempre di più, si droga sempre di più, la situazione in famiglia è tesa, è un effetto domino. Tutto crolla, divorzia dalla moglie, confessa pubblicamente la sua malattia, la depressione, finirà in un centro di disintossicazione. È proprio lì lui capisce per l'ennesima volta che l'unica verità alla quale può attaccarsi è quella che la musica è la sua vera e unica medicina. Si rende conto che l'unico modo che ha per restare vivo è neutralizzare tutti i pensieri negativi, trasformandoli in musica, capitalizzarli, io dico. Finisce di ripulirsi il sangue, si rimbocca le maniche, si mette subito alla ricerca di un nuovo progetto musicale. Prima ci prova da solista, poi arriva alla svolta perché i Rage Against the Machine stanno cercando un cantante per sostituire Zach Della Rocha. Appena sentono Chris, gli propongono di entrare nella band. Quel gruppo cambierà il nome, diventeranno Audioslave, e questo è Tom Morello, il grandissimo chitarrista della band. Quando lo abbiamo incontrato la prima volta in studio, lui si è messo al microfono e ha iniziato a cantare una canzone. Non è che semplicemente cantava bene, non è che era semplicemente bravo, era trascendentale. E quando nasce subito un'alchimia, al primo momento in cui vedi una persona, non puoi scordartelo, non puoi far finta di niente. Gli abbiamo detto di iniziare subito a provare con noi. La leggenda narra, ma probabilmente è vero, che lui i primi 19 giorni di prove con gli Audioslave scrive 21 canzoni, un colpo d'ala, è un entusiasmo ritrovato, e così nel 2002 esce il primo album, poi inizia il tour, e naturalmente ci sono ricadute anche pericolose. Lui insomma è uscito da poco dal centro di disintossicazione, il tour è il posto ideale, ahimè, per ricascare in certe abitudini terribili, nella droga, e lui affronta le sue paure, le supera, la tournée raccoglie successo, poi lui sta rimettendo a posto la sua vita, niente droghe, nuova band, c'è solo da risolvere il problema con la moglie. Susan e Chris divorziano nel 2004, e il problema è che lei nell'accordo, lo fanno le mogli quando si separano, lei nell'accordo vuole che gli venga ceduta la collezione di chitarre del marito, 15 chitarre che lui ha accumulato con sudore, sangue e lacrime, e sono diventate dei pezzi di storia. Inizia una battaglia legale di 4 anni, alla fine Chris quelle 15 chitarre se le potrà tenere perché il giudice così deciderà. È un buon momento per Cornell, si trova bene nella band e i live vanno benissimo, vanno a meraviglia. Il 6 maggio del 2005 gli Audioslave segnano un momento storico per certi versi, suonano in Plaza Tribuna Antiimperialista nel centro dell'Havana a Cuba, è una piazza grandissima, è davanti a 70.000 persone, temperatura perfetta, cielo stellato, l'ingresso gratuito, la gente che aumenta con l'inizio del concerto. Verso le 9:30 arrivano gli Audioslave, per la prima volta nella storia un gruppo rock statunitense si esibisce a Cuba e Cornell è l'eroe di quella serata. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Il concerto del 2005 a L'Avana forse è il passaggio, il momento più importante per gli Audioslave. Questo è Cornell in un'intervista rilasciata a Rolling Stone 7 anni dopo, nel 2012. In quella serata ho davvero capito che cosa è la musica. È quel linguaggio che tutti parlano, a prescindere dalla tua lingua madre. E spero che l'abbiano capito tutti quella sera e che se ne siano andati con questo insegnamento da portare con sé. E arriva anche un nuovo amore, si chiama Vicky Karayannis, una donna molto bella, mora, sguardo intenso, di origini greche. Si sono conosciuti a Parigi, 2 mesi dopo si sposeranno, avranno 2 figli, la piccola Tony e poi Christopher Nicholas. E per Chris è una boccata d'aria fresca, e l'idea di questa nuova pace interiore, come sempre, però è solo falsa apparenza, perché poi in realtà le cose con la band cominciano a peggiorare. Lui vuole scrivere i suoi testi, decide di abbandonare gli Audioslave, però quel cammino si interrompe bruscamente. Lui è a Los Angeles, è in sella alla sua moto, sta sfrecciando per le strade della California, viene colpito in pieno da un camion, un impatto molto violento, viene portato in ospedale in rianimazione. Ci rimarrà per mesi in ospedale e passerà le giornate a scrivere canzoni. Dice che non è soddisfatto, sembra avere perso l'ispirazione. Poi nella sua vita arriva un amico, si chiama Chester Bennington, è il cantante e leader dei Linkin Park. I due si riconoscono, si assomigliano, diventeranno grandi amici. E Chester ha grandi problemi di depressione anche lui, combatte la depressione cercando nella musica la risposta che la vita non riesce a dargli, e insieme ritrovano quell'ispirazione, cominciano a nascere delle canzoni particolari. Forse una delle più belle è Scar on the Sky, ma ce ne sono tante. l'amicizia, l'amore della moglie, l'affetto dei figli, la musica, insomma è la vita di Chris Cornell. È sempre stata una battaglia contro la depressione, quella che lui chiamava il sole nero, Black Hole Sun, è il testo è scritto nel periodo di maggior successo dei Soundgarden, quello che verrà definito il canto del cigno della scena grunge, no? L'album Super Unknown. Black Hole Sun rimane probabilmente il suo manifesto, con le parole "nessuno canta come fai tu", "sole nero, verrai e spazzerai via la pioggia". Insomma, c'è questa bomba innescata dalla nascita, la bomba orologeria. E a aiutarlo ad andare avanti in questo periodo c'è proprio Bennington, il suo amico, che ha anche lui la bomba orologeria dentro di sé. Si esibiscono spesso assieme, ognuno va a trovare l'altro nei palchi calcati dall'amico. Cornell torna di nuovo in forma per l'ennesima volta, si interessa di cause importanti. C'è un servizio di MTV che racconta proprio di questo periodo. The last solo release prior to his death. Chris registra l'ultimo singolo nel 2015. Il titolo della canzone è The Promise ed è scritto per il film omonimo che parla del genocidio armeno. È una canzone di beneficenza e oltre alla realizzazione del singolo, Chris dona anche una somma a un'associazione che supporta rifugiati e bambini disagiati. Il timer di quella bomba orologeria sta concludendo la sua corsa. Siamo a Detroit, 17 maggio 2017. Cornell si sta esibendo sul palco del Fox Theater per una reunion dei Soundgarden, pensate. Si ritrovano per l'ultima volta, stanno suonando In My Time of Dying, che è una cover dei Led Zeppelin. La canzone dice: "Nel momento della mia morte voglio che non pianga nessuno, tutto quello che voglio che tu faccia è che porti il mio corpo a casa". Parole che forse lui ha cantato come un appello vero e proprio. La prima persona che sente al telefono dopo il concerto è Vicky, è la moglie. C'era qualcosa che non andava, lo sentivo. Chris era diverso, parlava male e biascicava le parole. Anche le persone che gli stavano intorno avevano notato che non era in sé in quei momenti dopo il concerto. Chris torna in albergo, entra nella stanza 1136 del Grand Hotel di Detroit e si impicca, lascia così la moglie, i tre figli, gli amici e dei fan che avevano visto in lui un punto di riferimento. La gente dice di non colpevolizzarmi, che non avrei potuto farci niente, ma c'erano dei segnali. Le persone non riconoscono la depressione come una malattia ed io mi sento colpevole. I feel guilty of the same thing. Vicky è distrutta, ma è distrutto anche l'amico Chester Bennington, che pubblica una lettera aperta. Il tuo talento era puro e senza rivali. La tua voce era gioia e dolore, rabbia e perdono, amore e sofferenza tutto insieme. Non riesco a immaginare un mondo senza di te. E infatti, due mesi dopo, proprio nel giorno del compleanno di Cornell, Chester Bennington getta anche lui la spugna, si toglie la vita, un destino comune a molte star del grunge, da Kurt Cobain a Lane Staley degli Alice in Chains. È difficile vivere, è difficile stare su quel palco in quel modo con tutti quei fantasmi che avevano dentro. Qualche volta i colpi d'ala non sono necessari solo per volare più in alto, sono necessari per rimanere in volo, per non precipitare. Ecco, Cornell non è riuscito a evitare il baratro della depressione, ha tentato in tutti i modi, nel frattempo ha regalato grande musica e grandi emozioni. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.